5. Ascolta i dialoghi e indica l'azione. 1. Esther, sai suonare uno strumento musicale? Sì, so suonare il pianoforte. Due. Ho paura dell'acqua, non so nuotare. Perché non provi a frequentare un corso di nuoto? 3. Sai qual è il suo numero di telefono? No, purtroppo non lo so. 4. Il mio computer non si accende. Forse è rotto. Hai chiesto al centro assistenza? Secondo me, lì sanno riparare qualsiasi guasto.